abbiate uno sguardo. Se non c'è più niente da dirsi, voi dite che è giusto lasciarsi. Voi dite che è giusto lasciarsi, però io conquisto. Thank you.